Già ieri sera sappiamo che insomma sono arrivati i primi ospiti, dovrebbe essere arrivata anche Ivanka Trump, vediamo arrivare anche i primi mega yacht. Tra l'altro abbiamo saputo che non arriveranno in realtà poi i due yacht di Jeff Bezos, il Coru e l'Andromeda, ma appunto invece stanno arrivando i primi. C'è questo Ben Miller che è un grosso investitore e molto amico appunto di Jeff Bezos. Si vede chiaramente già tanta più polizia, girare per le calli, girare per i canali, perché poi appunto anche la militarizzazione della città comunque sarà un tema dei prossimi giorni. E nella settimana scorsa poi insomma sentivamo anche di come poi si stavano appunto preparando i luoghi in cui ci sarà questo ricevimento, no? Quindi non lo so, i lavoratori della Fondazione di San Giorgio ci raccontavano di come si sta praticamente rimettendo a nuovo tutta una parte della fondazione, cioè ci dicevano sembra quasi che la stiano smontando, pulendo e ricostruendo. C'è stato un grosso movimento anche chiaramente poi di preparazione in alcuni specifici luoghi della città, no? Ad esempio la Misericordia, dove avrebbe dovuto fare il ricevimento che ora non farà più. Abbiamo visto veramente portare un'enorme quantità di cose, hanno fatto le prove generali addirittura, e poi appunto lunedì, dopo che è stato annunciato lo spostamento del matrimonio, abbiamo visto come tutte queste cose qua si stanno invece spostando verso un'altra parte della città. Quindi ecco, diciamo che quello che si vede in questi giorni è proprio una città in cui c'è tantissimo movimento, ma soprattutto c'è un tantissimo anche vociare, no? rispetto a questo matrimonio, anche perché appunto diciamo che c'è una città anche abbastanza polarizzata su due, per il sì, sia che per il no, come insomma si è ben letto credo in questi giorni. Quindi vediamo appunto l'arrivare di questi yacht, vediamo già anche l'arrivare poi di tanti turisti, tante persone che sicuramente verranno qua in questi giorni un po' incuriosite, ecco, da quello che succederà in questi giorni, appunto anche poi per andare poi ad aggravare ancora di più una situazione che si darà in questi giorni. Quindi diciamo che inizieremo a vedere effettivamente poi, secondo me, a partire da oggi effettivamente quello che succederà in questi giorni. L'arroganza con cui è venuto, o con cui vuole venire in questa città, lo dimostra perfettamente. Quindi no, appunto, la seconda o terza persona più ricca di questo pianeta, arricchitasi poi, no, sullo sfruttamento, come ben sappiamo, di lavoratori e lavoratrici, ma anche sullo sfruttamento dei territori. Tra l'altro proprio appunto in una delle prime assemblee che abbiamo fatto come No Space for Bezos è intervenuta proprio una signora di origini statunitense che ci raccontava che lei aveva una libreria che ha dovuto chiudere proprio a causa di Amazon. E quindi lei descriveva, secondo me in maniera molto semplice ma molto comprensibile, il fatto che, cioè, parliamo tendenzialmente di una persona che si è arricchita sulla povertà altrui, no? E questo appunto credo che sia un esempio perfetto rispetto a questo. Poi anche la vicinanza, no? di Bezos l'abbiamo visto perfettamente quando c'è stato l'elezione di Trump, seduto lì, è una persona che va a braccetto esattamente poi con Trump, che sta avendo un ruolo non indifferente nell'avvicinarsi e non solo nell'avvicinarsi ma proprio nel dare un determinato setting a quella che è la gestione globale, e l'avvicinarsi, diciamo così, non solo di un regime di guerra globale nel quale stiamo già vivendo, ma anzi dopo l'attacco all'Iran che c'è stato domenica, anche verso comunque un aggravarsi ancora di più, una tensione ancora di più degli equilibri geopolitici. Quindi per noi appunto questa protesta non rappresenta solo una protesta, come dire, per la salvaguardia della città di Venezia, ma poi è anche una protesta verso un sistema, un modello perfettamente rappresentato da Jeff Bezos, ma rappresentato proprio anche nell'oligarchia e nel tecnofascismo che si sta dando sempre di più verso queste persone che tendenzialmente sono in grado e hanno in questo momento un potere di cambiare poi anche gli equilibri globali senza avere poi nessun tipo di ripercussione, e alla fine della storia dicendo anzi di non avere nessun tipo di responsabilità. Quindi ecco, per sintetizzare un po', per noi è anche un po', rappresenta un po' esattamente la società in cui non vogliamo vivere, e soprattutto il futuro in cui non vogliamo vivere.